Sometimes I get a good feeling, yeah. Il coordinamento lesbiche romane presenta I get a feeling that I never had before, no. È una calamità di cui ci rendiamo perfettamente conto. Trasmissione autogestita sugli 87.900 di Radio Onda Rossa. Allora, buonasera a tutte, questa è la nostra 96esima trasmissione. Siamo qui in studio Caterina e Rosina. Oggi avremo sicuramente qualche problema tecnico, avendo a che fare anche con cassette, CD. Io non sono poi così esperta. Comunque volevamo dirvi che l'argomento di oggi sarà il resoconto della 10ª edizione del Festival Internazionale del Cinema Lesbico Immaginaria, che si è svolto a Bologna dal 28 febbraio al 3 marzo. Noi del coordinamento Lesbiche Romane siamo, come ormai è nostra abitudine, andate a Bologna per partecipare a questo evento culturale, direi eccezionale. E abbiamo intervistato molte donne che sono state protagoniste in quanto registe, artiste, collaboratrici, promotrici di iniziative politiche e organizzatrici di questo festival. Abbiamo cercato di toccare con le nostre interviste tutti gli ambiti che questo evento culturale propone. Direi quindi di far partire subito la prima intervista che io e Lucilla abbiamo fatto a Gabriella Romano, regista del film dal titolo L'altro ieri, nel quale cinque donne descrivono quel periodo fatto di repressione, di paura, di silenzio. Stiamo parlando chiaramente del periodo fascista, rivelandoci nel contempo la ricchezza del loro mondo interiore, le aspirazioni, i sogni e i desideri inconfessati. Insieme a Gabriella Romano abbiamo intervistato anche Lidia Menapace, che salutiamo ancora con molto affetto, che ha aiutato la regista prestandosi a collaborare, evocando alcuni suoi ricordi personali. Andiamo quindi con la prima intervista. Come dicevo poc'anzi, non sono molto esperta con l'apparecchiatura, metto un attimino una musica di sottofondo sperando prima o poi di riuscire a mettere la cassetta, abbiate pazienza un attimo. You're a discontented mother and a regimented wife. I've no doubt you dream about the things you never do. Ciao a tutte, siamo Lucilla e Caterina, siamo qui al Festival di Immaginaria, arrivato alla sua 10ª edizione. Sentite infatti le voci di sottofondo, tutte le donne sono uscite dalle sale perché è appena finita una proiezione. Io e Lucilla abbiamo visto giù, seduta ad un tavolino, quasi nascosta, Lidia Menapace, che ha collaborato con un film che verrà presentato a questa edizione. Adesso ci avvicineremo sperando di trovarla e disponibile ad un'intervista. Allora, siamo Caterina e Lucilla del coordinamento Lesbiche Romane, abbiamo rapito Lidia Menapace e Gabriella Romano e dopo aver visto il loro film volevamo porre loro alcune domande. Allora, prima di tutto io personalmente volevo ringraziare Gabriella perché guardando il suo film ho colto un aspetto secondo me molto importante, che è quella della negazione assoluta, soprattutto in regimi totalitari ma anche oggi, della possibilità di una sessualità diversa da quella consentita dai canoni. Attraverso il tuo film questo viene fuori, infatti molte delle intervistate hanno detto che si presumeva, avevano notizie, però nessuno diceva niente. Questa è una cosa che è un aspetto che mi ha colpito molto, anche perché sono un insegnante, io stesso oggi mi trovo magari a fare dei discorsi in base ai quali io stesso a volte non legittimizzo una possibilità di sessualità diversa da quella eterosessuale. Sì, questo è il motivo, per cui era una storia molto difficile da raccontare. Perché intanto è stato molto difficile trovare delle persone che ne parlassero, perché comunque c'è stata la repressione del regime, ma c'è stata anche l'autocensura, derivata dalla repressione del regime c'è stata l'autocensura, e molte donne di quella generazione non parlano volentieri di queste cose. Perché se no perciò è stata un po' una sfida, e questo è anche il motivo per cui due delle intervistate non si identificano. Per me era importante parlare di questa storia, cioè di quella storia di cui non si è parlato, cioè di persone che vivevano confinate molto in casa, molto invisibili, molto in cui tutto era molto difficile da definire, di cui non si parlava, che era appunto un tabù completo, ancora oggi lo è. Certo. Io credo che lei abbia proprio preso il punto di vista giusto, perché è vero che scartabellando si potevano trovare alcune figure, però l'induzione culturale era fortissima. Allora, quello che lei testimonia, chissà com'è cominciato, forse è cominciato come adesso, che dicono sì, però almeno che non facciano manifestazioni. Sì, se lo facciano a casa loro. Ecco, certo. Il circolo dell'Arcigay di Padova è stato imbrattato, poi ciascuna persona intervistata dice no, ma io figurati. Purché non lo dicano. Certo. Ecco, allora questo inizio fa arrivare poi ai punti che documentiamo noi, perché poi non sai nemmeno cos'è. Certo. Perché c'è una specie di censura profonda determinata da un contesto. Infatti mi aggancio a questo, io cercavo di fare un po' questo, cioè di parlare non tanto delle eccezioni favolose che sicuramente c'erano, ma delle persone comuni e anche di mettere il dito su una cosa che è molto difficile da descrivere, e cioè la repressione, come il bullismo, come il razzismo, come il sessismo, consiste di una serie di atti molto piccoli e molto insignificanti presi di per sé. Però poi la somma di queste cose crea una situazione invivibile. Però il denunciare un fatto ti rende infantile, ti fa fare la figura della persona piccola, meschina. Allora se tu denunci il compagno di scuola che ti ruba l'astuccio e ci sputa dentro, fai la figura del fesso. Però se questa cosa qui capita tutti i giorni dell'anno e lo fanno tutti, capisci? È l'insistenza che crea il fatto importante. Dunque questa cosa qua erano una serie di piccoli messaggi, di piccoli segnali che però poi sommati creavano una atmosfera entro la quale era molto difficile dichiararsi, capire cosa si voleva, chi si era, o avere uno spazio personale. No, perché quando cominciano queste atmosfere, alcuni fatti che non possono essere nominati non esistono, notoriamente, se tu non nomini l'annullamento l'annullamento totale. E questo, per esempio, nemmeno chi erano gli ebrei? Io ricordo che un giorno una mia compagna di scuola non è più venuta a scuola, io sono andata a casa a portarle i compiti perché così si usava, la loro domestica ha detto non servono i compiti, non verrà più a scuola. E io che ero con mia sorella ho detto ma perché? E lei ha detto perché sono ebree le due sorelle. E io mi arrossisco ancora adesso, tornando a casa con mia sorella, le ho detto ma quella lì deve essere proprio una ragazza di campagna, la domestica, non sarà mica una malattia infettiva essere ebrei. Che fossero gli ebrei non lo sapevo, nella mia città non c'era mai stata una grande storia ebraica. Allora, tu non sai chi sono gli ebrei, non sai chi sono gli omosessuali, capisci, non sai chi sono i protestanti. Chi sono i protestanti? Quelli che non credono nella Madonna. Tutta una serie di pregiudizi creativi che però appunto sono piccolissime cose. E tu dici, ma io vorrei sapere qualcosa di più sui protestanti. Io sono quelli che non credono nella Madonna. E basta. Certo. Cos'è l'obiezione di coscienza? L'obiezione di coscienza per il regime è una cosa vigliacca, per la Chiesa è una cosa protestante, non puoi farla. Certo. Così si costruiscono queste censure sociali diffuse. Io una cosa invece ti volevo richiedere rispetto a quello, alle domande che poi sono state fatte dopo fuori, no? Quella battuta che non è riportata nel film che tu hai fatto a proposito di del professore del liceo, sì. Che mi è piaciuta molto, ma al di là di tutto, proprio per significare, tu parli di ignoranza, no? Ignoranza di un tempo che oggi ritroviamo pari pari, anzi in questo momento c'è poi anche un coltivare, esatto, sull'Islam, ma non solo, perché sull'Islam per dire una cosa, ma anche rispetto ad altri momenti. Ultimamente c'è stata una trasmissione alla Vita in diretta che una mia amica ha visto casualmente, e dove c'era il Pecora, il famoso Pecora, insomma, buon tempo per la cronaca, e che diceva, a proposito dell'omosessualità, perché si parlava di travestitismo, diceva, vabbè, gli omosessuali, purché non il travestitismo è una cosa simpatica, gli omosessuali che lo facciano dentro casa e che non rompano. Però c'erano anche personaggi come la Desio, che diceva, travestirsi è bello, io sto facendo degli spettacoli in cui mi travesto da prostituta e mi diverto tantissimo. Quindi cioè, capiamo su quello che poi sul creare, no? Ma, a proposito di questo, cioè, ci ridici questa cosa del tuo insegnante? Allora, a dimostrazione di come a furia di queste piccole censure si crea un'ignoranza, quella cosa totale per cui tu non ti fai neanche la domanda. Allora, il professore di liceo, poi dico incidentalmente, io ho saputo dopo che era antifascista. Mm? Ecco, aver detto quello che poi dirò era già antifascismo, perché lui, spiegandoci Saffo, disse, ed era considerata lesbica. E io ho detto, ma cosa doveva essere arruinata lesbo? Perché pensavo che lesbico fosse il nome geografico di tutti gli abitanti di Lesbo, uomini e donne. E questo professore, per aver detto questo, aveva già infranto la censura, certo. Perché aveva nominato la cosa. Certo. Quindi poi sono venute le curiosità, sono andato sul vocabolario e ho scoperto che c'era il lesbismo, per dire. Ma era così. Invece un altro aspetto del tuo film che a me è piaciuto molto è legato sicuramente all'aspetto del vestiario. Allora, spesso e volentieri il lesbismo viene identificato ancora oggi con una sorta di abbigliamento che diventa un uniforme se visto sotto certi aspetti legati all'apparenza. In realtà è una forma di messaggi che si mandano, e una volta era più che altro una forma di ribellione anche attraverso l'abbigliamento ad un codice prestabilito. Sì, comunque noi non riusciamo neanche a immaginarci, credo, che cosa voleva dire l'uniformità di vestire dell'epoca. Certo. Cioè all'epoca ricordo le parole di mia nonna che mi descriveva come si vestivano le ragazze. C'erano delle scelte limitatissime, dunque già il mettere un fazzoletto magari un po' più di qua invece che di là voleva già significare molto più di oggi. E penso che da questo punto di vista quello che dice Silvia, forse inquadrato in quell'epoca, era molto forte, credo, girare per Trento in pantaloni. Infatti la restavano. Perciò sì, penso che da quel punto di vista lì, ovviamente il modo di vestire è anche un messaggio, eccetera, ma oggi come oggi ci sono molte più sfumature possibili. Cioè, no, oggi sicuramente. Diciamo che è rimasto semplicemente l'aspetto del non voler essere, cioè del voler essere altro. Ecco, questo è rimasto ed è secondo me importante. E poi bisogna ricordare sempre che nella storia delle donne il vestire è una cosa importantissima, perché è un vero linguaggio. Certo. Un vero linguaggio. Certo. Non so, le suffragiste inglesi hanno inventato il tailleur perché non potevi fare il sit-in con la crinolina. Certo. Quindi questo abito semplificato significava una libertà di movimento, perché potevi pure sederti per strada. certo. Facevi scandalo da morire, figurarsi, ma con la crinolina saresti stata anche ridicola, non avresti potuto muoverti. Quando mia mamma andò a lavorare a Milano e vide che le ragazze di Milano non portavano più il colletto alto con le stecche di balena, non più la crocchia e non il sedlino, lei tornò a casa e disse a mia nonna, ma che posso, e mia nonna disse la famosa frase, male non fare, paura non avere. Allora lei e sua sorella si tagliarono la treccia, levarono le stecche dal colletto, tolsero lo sedlino e quando si videro, dissero, oddio, tutti vedono come siamo fatte, perché capisci, il corpo era tenuto da questa armatura, un bitino da vespa, il sellino, e però andarono, diciamo, gloriosamente per strada con i capelli corti, l'abito charleston, il ginocchio blu, senza busto, e fu una cosa di un coraggio da leonesse proprio, lei, sua sorella, faceva parte della loro emancipazione. Volevo solo aggiungere una cosa, che una delle critiche, io questo film l'ho fatto vedere a delle persone individualmente, questa era la prima, e una delle critiche che mi è stata mossa più spesso è stato che non ci sono dei fatti, non ci sono dei fatti, non ci sono degli eventi, delle cose eclatanti, delle cose su cui, a parte lo scandalo di Anzola, che poi non è neanche questa gran cosa, che non c'è stato del processo, quello che dice il film, che non ci sono dei grandi fatti, e io penso che, appunto, penso che la storia si racconta anche per piccoli fatti, o perlomeno a me interessano molto i piccoli fatti che raccontano un periodo, un modo di essere, eccetera, eccetera, e che forse i fatti che a noi sembrano piccoli in realtà sono molto grandi. No, ma c'è anche un altro particolare, c'è anche un altro particolare, che certi fatti nella storia legale non rientrano, quindi l'unico modo per tramandarli è questo messaggio verbale che passa proprio da donna a donna. Non solo, Caterina, ma la storiografia ufficiale invece cancella scientificamente l'esistenza di una serie di cose. Sì, no, quindi la storia della vita quotidiana è una cosa proprio inventata dalle donne, perché è la nostra vita che viene cancellata semplicemente dicendo non è importante, non è rilevante. Cioè, sì, per esempio ci tenevo a inserire questa storia del processo di Anzola, perché gli archivi del comune, del tribunale di Bologna, sono stati bruciati quasi completamente alla liberazione, e dunque non c'è traccia di questa cosa, ed è vero che è un episodio sicuramente minore nella storia, ovviamente, dell'Emilia Romagna e fascismo, però è per me un episodio molto, a me è sembrato molto importante, mi è sembrato molto pregnante, e lei lo racconta con gli occhi di chi l'ha vissuto, con la voce di chi l'ha vissuto, insomma. E poi, appunto, quello che dicevo prima, questo sommarsi di tutti questi piccoli segnali dà una misura dell'atmosfera di un posto. La repressione spesso è viscida e si traveste da piccole cose che, se tu denunci, sembri un meschino. Sì, appunto, l'esempio che hai fatto prima è giusto. Vabbè. Grazie. Noi ringraziamo Gabriella Romano e vediamo in pace. Grazie a voi. E ancora due parole prima di mandare un brano musicale. Vogliamo ricordare ovviamente che in Italia il fascismo valorizzava la donna solo in funzione del suo ruolo di madre, e che il lesbismo era l'ultimo tabù. Spesso era interpretato come isterismo, per cui veniva curato psichiatricamente, oppure anche come segno del demonio. Molte donne che rifiutavano il matrimonio venivano sottoposte ad esempio a pratiche di esorcismo. La parola stessa, lesbismo, era impronunciabile e la morale dell'epoca ne negava l'esistenza. Certo è che l'annullamento e il disprezzo in generale partono e si manifestano anche attraverso la negazione di una realtà. Ma chi fu a dire in occasione del World Pride purtroppo c'è la Costituzione? Ma chi lo sa, riflettiamoci su e ascoltiamo Sheryl Crow con il brano Keep on Growing. quasi mi dispiace sfumare questa canzone, ma abbiamo veramente tante, tante cose da dire. E prima di mandare un'altra intervista, volevo darvi qualche altra piccola notizia sul Festival Immaginaria, che quest'anno ha visto la presenza di ben 974 donne. E personalmente penso che se non ci fosse stato di mezzo lo sciopero dei treni, forse si sarebbe arrivate anche ad una presenza più massiccia. 974 donne, ma vi rendete conto? Provate semplicemente ad immaginare 974 donne. Questa è Immaginaria. C'è un'altra cosa che mi preme dire. Lo sapete, per esempio, che lo staff delle organizzatrici del festival da 2 anni ha rinunciato volontariamente al contributo del Comune di Bologna? Beh, anche questa è coerenza. Vi ricordo che il Comune di Bologna è retto da un'amministrazione di centrodestra e le donne di Immaginaria non hanno voluto i 5 milioni di contributo per protestare contro la politica discriminatoria che questa amministrazione ha intrapreso nei confronti di tutti. Bene, come ogni anno e come ogni festival che si rispetti, alla fine delle proiezioni vengono premiati alcuni film che qui ad Immaginaria vengono suddivisi nelle seguenti sezioni. Per la categoria narrativi ha vinto interviste, e in questo film una voce fuori campo intervista 9 ragazze per cercare di scoprire se hanno i requisiti giusti. Requisiti giusti per che cosa? Ma per diventare la prossima fidanzata dell'intervistatrice. Una spassosa pellicola che ironizza sulle modalità di conoscenza e sulle diverse tecniche per trovare quella giusta. Per la categoria sperimentali invece il film Intersection parla di bambini e delle bambine che nascono con entrambe gli attributi sessuali, quindi maschili e femminili insieme, ai quali la medicina e la legge hanno imposto cosa dovranno diventare. Si interviene chirurgicamente eliminando uno o l'altro sesso basandosi su criteri decisamente discutibili. C'è chi ha subito più di 16 interventi dalla nascita in poi per ritrovarsi in un corpo che non le o gli appartiene. Con quale diritto, se non quello di una scienza e di una cultura abituata a decidere su tutto e pronta a tradire ogni forma di vita? Per la categoria documentari, Mujeres Creando. E questo è il titolo del film, ma è anche il nome di un collettivo femminista boliviano che utilizza l'arte come strumento di protesta. Consapevoli dei disastri sociali, politici ed economici causati dal colonialismo, l'imperialismo e dalla globalizzazione, questo collettivo femminista denuncia il razzismo verso le popolazioni indigene, l'operato delle organizzazioni non governative, la discriminazione delle lesbiche nella società boliviana, ma anche i miti importati dall'Occidente e l'assoluta mancanza di democrazia e di libertà in Bolivia. Poi infine c'è il premio Immaginaria, che dunque quest'anno l'ha vinto il film Care Walk, e è la storia praticamente della signora Faber che vive in uno stabile, in un quartiere un po' alla periferia della città, che come inquilina però ha il compito di pulire anche le scale e subisce umiliazioni da parte di tutti gli altri condomini per molti anni, ma come si dice, quando è troppo, il film racconta del giorno in cui arriva il momento di dire basta, e la signora Faber dice basta in un modo esemplare. E naturalmente vi ricordiamo che siete all'ascolto di È una calamità, di cui ci rendiamo perfettamente conto, una trasmissione autogestita a cura del coordinamento Lesbiche Romane sugli 87.900 di Radio Onda Rossa. Potete telefonarci qui in radio allo 06 49 17 50, oppure al Centro Femminista Separatista, il nostro recapito è 06 68 64201, telefono, fax, naturalmente anche segreteria, e inoltre potete contattarci tramite email contatti@clrbp.it oppure visitare il nostro sito web, che è ancora in costruzione, però se ci contattate ci fa comunque piacere, www.clrbp.it. E naturalmente, visto che siamo a ridosso dell'8 marzo, non potevano mancare gli appuntamenti al Buon Pastore, e quindi vi diciamo subito che il CFS nel pomeriggio dell'8 marzo presenterà due volumi editi dalla BLI, Biblioteca Lesbica Inevitabile, di cui parleremo più tardi. E dunque i libri, intanto vi annuncio i titoli, sono Nespole, Nurzie, Camionari, il lesbismo a Bologna negli anni 70 e 80 e La memoria irregolare, 20 anni di testi lesbici selezionati da Bollettina del Clima. Ovviamente non ci sono soltanto le cose serie e seriose, ci sarà anche un buffet nella sede del Centro Femminista Separatista e poi una grande festa sorpresa organizzata dalle sorellastre che gestiscono da anni il bar del Buon Pastore. Ci sarà un concerto di una nota cantautrice lesbica, non vi diciamo il nome altrimenti la sorpresa non c'è più, e ci sarà anche un concertino di percussioni, quindi vi aspettiamo tutte quante in massa al Buon Pastore per l'8 marzo. E adesso proseguiamo con il nostro resoconto di Immaginaria, vi facciamo ascoltare una intervista a Marina Genovese, presidente di Visibilia. Allora, siamo sempre ad Immaginaria e con noi ci sono due componenti dell'equipe di Immaginaria. Gli chiediamo un bilancio, soprattutto in relazione all'SOS che loro hanno lanciato prima dell'inizio di questo ultimo dell'evento di quest'anno, e su che intenzioni hanno in futuro rispetto all'appello che loro stesse hanno fatto oggi in un dibattito qui. Parla Marina. Allora, dunque, il nostro bilancio è assolutamente positivo, ma questo già da prima del festival, in quanto al nostro SOS Immaginaria c'è stata una grande risposta, sia in termini di collaborazione, sia in termini anche di denaro. Abbiamo avuto molte offerte, e offerte appunto in denaro e in ore di collaborazione. E poi al festival il bilancio è ancora migliore, in quanto intanto non ci sono state le solite lamentele sui costi dei biglietti, tessere e varie, e comunque c'è stata anche proprio una grande comprensione dello nostro sforzo. Io per ora sono anche molto contenta di come è andato questo incontro con noi organizzatrici, in quanto mi è sembrato che le proposte che sono venute fuori siano estremamente costruttive, intanto una collaborazione più stretta tra i gruppi lesbici, separatisti e non. Certo. E questa è una cosa che io credo che tutte noi che facciamo parte di associazioni lesbiche ci auspichiamo da sempre, da anni, e sono convinta che prima o poi riusciremo in un qualche modo a mettere a segno, con più anni di esperienza sulle spalle, più maturità. Certo. E quindi, diciamo, per il momento noi stiamo pensando a questo incontro che vorremmo fare a maggio tra tutti i gruppi che intendono collaborare per Immaginaria e le singole, per trovare insieme appunto delle strategie comuni per far sopravvivere gli spazi e le iniziative che ogni gruppo mette a segno, insomma, nella propria politica, perché sì. Poi il bilancio che sentivamo che veniva fatto, e che era un bilancio tutto sommato collettivo, sì, che proveniva poi da tutte le esperienze diverse, certo, è che siamo di fronte a una chiusura comunque degli spazi e un restringimento delle aree del poter fare, no? In politica, certo. E che quindi il vostro SOS corrispondeva in realtà all'SOS di tutti gli altri, degli altri gruppi. E abbiamo sentito infatti sia le Desiderande, abbiamo sentito Noi del coordinamento naturalmente abbiamo sentito Azione Gay e Lesbica e l'Arci di Bologna, tutte quante dicevano la stessa cosa. Esatto, anche Pianeta Viola anche di Brescia. Anche Pianeta Viola di Brescia, esatto. Quindi io spero che da questo appello comunque nasca una strategia comune che ci aiuti a difendere i nostri spazi, piccoli o grandi che siano. E non solo a difendere, a questo punto a riproporli con più forza. Con più forza, assolutamente. Allora appuntamento a maggio. A maggio. Tutte insieme. Tutte insieme. Grazie Marina. Past the devil's own temptation, beyond where angels sleep, to the holy invocation of a neon city street. Quella che avete ascoltato era Melissa Etheridge con il brano I Take You With Me. E purtroppo il tempo è tiranno, quindi ci vediamo costretti a sfumarla. E per continuare il nostro resoconto del Festival Internazionale del Cinema Lesbico, dove abbiamo incontrato anche due donne del circolo Azione Gay e Lesbica di Firenze, adesso sentiremo l'intervista. Vi ricordiamo che Azione Gay e Lesbica di Firenze e il collegamento lesbico italiane, il collegamento lesbiche italiane hanno progettato, ideato la biblioteca lesbica inevitabile. Vi ricordiamo gli indirizzi di questi due gruppi, il CLI in via San Francesco di Sales 1A, per contattarlo il telefono è 6864201, la mail è cli-network@iol.it. Per quanto riguarda invece Azione Gay e Lesbica, via Manara 12 Firenze, telefono 055 67 1298, e la mail è info@azionegayellesbica.it. Ma adesso sentiamo un'intervista. Allora, siamo ancora immaginaria, il pomeriggio di domenica, e ci troviamo con due compagne di Azione Gay e Lesbica di Firenze che si presenteranno e che ci parleranno del loro progetto, di un progetto molto interessante che hanno lanciato e hanno portato qui perché venisse conosciuto. Io sono Elena Biacini e niente, cercherò di presentare brevemente questo progetto, che è un progetto di azione di un gruppo di lesbiche di Azione Gay e Lesbica e di un gruppo di lesbiche del collegamento lesbiche italiane. Del CLI quindi. E il progetto si chiama BLI, Biblioteca Lesbica Inevitabile. E come si può dedurre dal titolo, è un progetto editoriale che nasce innanzitutto con l'intento di dare alle stampe, quindi di poter divulgare dei testi che non hanno in sé grossi contenuti commerciali e che quindi difficilmente troverebbero le stampe in una cassa editrice. quindi diciamo con intento da una parte documentaristico e dall'altra comunque di pubblicare testi scritti da lesbiche per le lesbiche. Noi non siamo una casa editrice, non abbiamo intenzione di costituirne una, ma vogliamo appunto, per noi questo è un progetto diciamo appunto culturale fatto da lesbiche per le lesbiche, per noi questo è il presupposto fondamentale. Alcuni dei testi che abbiamo pubblicato sono e saranno di interesse diciamo documentaristico o storico, altri invece diciamo più di riflessione fino ad oggi ironica su noi stesse, e mi riferisco a in particolare a un testo che abbiamo pubblicato prima di dare un nome a questo progetto, cioè al Bli, cioè Diario di una misogina che ama le donne, vignette di Sara e testi di Valeria Santini. Sì, che ben conosciamo, almeno nell'ambiente. E al testo che abbiamo già in programmazione, che uscirà prima dell'estate, che sarà una raccolta della rubrica Detto e Non, che Valeria Santini tiene sulla bollettina, che per chi conosce la bollettina e la rubrica non sarà solo un testo ironico, perché questa rubrica appunto a volte è ironica, a volte sarcastica, a volte invece molto seria. Sì. E Valeria, tu vuoi dire qualcosa allora rispetto a questo progetto? La scrittura ti appartiene, lo sappiamo, perché ti conosciamo attraverso la bollettina. Noi del CLR peraltro collaboriamo anche noi alla bollettina e quindi la leggiamo, la diffondiamo e conosciamo i tuoi scritti, ma tu per te in particolare che cosa significa questo progetto editoriale e qual è il tuo rapporto con la scrittura? Allora, per me è sempre stato molto interessante anche muoversi dalla parte di chi edita o comunque dalla parte di chi cerca di promuovere. È sempre stato anche un po' imbarazzante, perché essendo una che scrive sembra che uno se la canti e se la suoni scrivendo, promuovendosi e magari leggendosi. E infatti io mi trovo abbastanza a mio agio in questo momento, perché i libri editi, gli ultimi due, io non c'entro. Meno male. Sono due, cioè, ho collaborato alla realizzazione di questi due libri, alla selezione dei testi, eccetera. Uno è sul lesbismo a Bologna negli anni 70-80 di Paola Cavallin, e un altro è una raccolta dei documenti e degli scritti più interessanti apparsi nella bollettina in questi ultimi 20 anni. E io questa idea di editare dei libri che comunque non troverebbero una diffusione o una stampa, perché non si sa, il lesbismo non è un target abbastanza diffuso, a meno che tu non pubblichi il romanzetto o poco d'altro, mi sembrava utile, perché comunque è un costituire memoria. Quindi il mio rapporto da questa parte, oltre che mi piace materialmente fare un certo tipo di lavori, proprio lavori tecnici, tipo raccogliere i testi, ribatterli al computer, sistemarli, pensare a come fare il libro, eccetera, e poi perché mi sembra una cosa utile. Il mio rapporto con la scrittura, per me la scrittura è il mezzo di comunicazione per eccellenza, quindi mi sembra importante comunque lavorare sulla scrittura o sulla diffusione. Bene, allora noi diventeremo fruitrici e, se è possibile, per quello che ci riguarda, anche collaboratrici, visto che se farete una raccolta per esempio degli ultimi scritti sulla bollettina, noi sappiamo come CLR di entrarci, comunque, quindi di stare insieme a voi a pieno titolo, insomma, a questo progetto. Grazie. Prego. Non abbiamo altro da dire, aspettiamo le pubblicazioni, va bene? Grazie. Sometimes I sometimes I get a good feeling, yeah. Yeah, I get a feeling that I never, never, never, never had before. No, no. Yeah. Avete ascoltato? È una calamità di cui ci rendiamo perfettamente conto, a cura del coordinamento Lesbiche Romane sugli 87.900 di Radio Onda Rossa. I really do believe it. Something's got a hold on me here. sospiro che avete ascoltato in questo inizio di canzone era di Tina Turner, anche noi ne abbiamo fatto una e non poteva mancare l'ultimo errore, la sigla, ma visto che vi piace così tanto io ve l'ho rimessa apposta, qualcuno forse l'ha scambiato per uno sbaglio, in realtà non è così. Noi staremo ancora insieme per un po' di tempo, un quarto d'ora circa. Giuro che manderemo tanta musica, visto che abbiamo parlato tantissimo. Abbiamo parlato, ricordo, del Festival Internazionale del Cinema Lesbico Immaginaria. E visto che abbiamo parlato di un evento separatista, la canzone è proprio giusta, infatti si intitola Private Dancer. You don't think of them as human. You don't think of them at all. You keep your mind on the money. Keeping your eyes on the wall. And your private dancer, a dancer for money. Do what you want me to do. I'm your private dancer, a dancer for money, and any old music will do. I wanna make $1 million. I wanna live out by the sea. Have a husband and some children. Come in these places, and the men are all the same. You don't look at their faces, and you don't ask their name. I'm your private dancer, a dancer.